stiamo lavorando. Concludendo, oggi abbiamo avuto fra l'altro il grande regalo da parte di Geshe Tenzin Tempel, che ha accettato di diventare guida spirituale del progetto. Questo per noi è un'ulteriore conferma del valore che questo progetto ha per l'istituto, del valore che i maestri attribuiscono a questo progetto, e soprattutto era importante per il valore che noi diamo ai maestri, perché, ripeto, non faremmo nulla di tutto questo se non fosse per loro e se non fosse un nostro modo per ripagarli della loro gentilezza, perché poi sostanzialmente è questo, no? Non c'è protagonismo, non c'è, c'è solo mettersi a servizio e ripagare il maestro per tutto quello che ci ha insegnato. Quindi ringraziamo anche Geshe Tenzin Tempel, ringraziamo l'istituto per questa occasione, ringraziamo l'FMT. E nulla, tenetevi aggiornati e chi di voi vuol dare una mano siete assolutamente benvenuti all'interno della famiglia PLP, quindi vi ringrazio di cuore per essere stati qua stasera. Se non ci sono altre domande, Chiedo, posso? prego. Qualche minuto, Lali ha fatto una chiusura ufficiale. Mi viene da proporvi una chiusura più evocativa, più in chiave meditativa. Abbiamo più volte in questi giorni, anche stasera, ringraziato i grandi maestri, il Dalai Lama, Lali ha citato Dostoevskij, insomma, tanti nomi. Geshe Tempel che ha accettato di essere guida spirituale, quindi tutto il nostro ringraziamento a tutti i maestri. Io vorrei mandare un ringraziamento e chiedere anche da parte vostra un ringraziamento profondo ai maestri che incontriamo tutte le settimane in carcere, che sono i cosiddetti detenuti, le persone che andiamo a conoscere e a trovare ogni volta che entriamo dietro a quei cancelli, che credo siano i maestri più importanti per noi, perché sono i maestri che ci mettono davanti alle nostre difficoltà, alle nostre proiezioni, alle nostre paure, al nostro ego. E sono proprio attraverso loro che noi possiamo fare un grande lavoro su noi stessi ed arrivare davvero un po' nei limiti delle nostre capacità e possibilità, ad ammorbidire questo senso dell'ego che ci portiamo dietro. Io ringrazio davvero tutti i detenuti maestri che ho incontrato in questi 3 anni di carcere, che mi hanno veramente dato delle cose molto preziose per conoscere me stessa, per cercare di andare oltre ai miei attaccamenti, alle mie afflizioni mentali, e mi hanno dato delle capacità di comprendere, di capire, di portare delle riflessioni di una profondità e di una spiritualità estrema, che nascono dagli inferi, perché è davvero un po' quel mondo lì è il mondo degli inferi. Davvero la sensazione quando si entra è di entrare negli inferi. E quando facciamo meditazioni di Tonglen nei mondi infernali, forse possiamo davvero pensare che questi mondi riflettano le visualizzazioni che i nostri maestri ci hanno insegnato, che il Buddha ci ha insegnato. Sono inferni interni ed esterni, sono inferni che loro si portano dentro interiormente, e sono inferni esterni di soprusi, cattiverie, schifezze che succedono continuamente. Allora, il fatto di avere questa grande fortuna di poter accedere a questi inferni, credo che per noi sia veramente una grande preziosità. E se non ci fossero loro, no, non potremmo farlo, no? La compassione egoistica di cui parla il Dalai Lama è proprio questa. Quando io faccio compassione è un egoismo nei miei confronti, perché poi io sto bene. E come al solito ha ragione, è proprio così. Quindi, ecco, questo è il mio ringraziamento che chiederei anche a voi di estendere a tutte queste persone e a dedicare qualche minuto di silenzio e di meditazione prima di salutarci e di andare a dormire interiore, verso questi mondi. Se volete, possiamo un po' guidarci in un piccolo Tonglen comunitario, dove inviare un'energia positiva a questi mondi infernali, che possono essere anche fuori dal carcere, non, anzi, ci sono persone fuori dal carcere che stanno anche peggio di chi sta dentro. Ma sicuramente dentro è difficile. come in grado di visualizzarlo, può davvero immaginare davanti a sé questi inferni del mondo interiore e del mondo esteriore, immaginandoli e visualizzandoli come meglio crede, e seguendo il ritmo del proprio respiro. L'idea è quella di inspirare il fumo nero che arriva da tutta questa sofferenza, inserirlo dentro di noi, lasciare che arrivi nel fondo del nostro cuore, che faccia scoppiare il nero del proprio egoismo, dell'attaccamento al sé che ci teniamo dentro e che attraverso un'espirazione possa uscire. Una luce chiara, bianca, calda, luminosa che possa portare beneficio a tutti coloro che in questo momento stanno soffrendo. E quindi dedichiamo tutta questa energia positiva alla propria evoluzione personale affinché questa evoluzione possa portare beneficio a tutti coloro che ci circondano, amici, nemici, estranei, senza alcuna differenza, con una mente più equanime e compassionevole che noi possiamo coltivare. Grazie, buonanotte.